Il punto di Stefano Folli. C'è una strana simbologia nel gioco delle date. Quest'anno l'11 settembre, anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, coincide con il discorso in cui il presidente americano annuncia un piano d'attacco ai fondamentalisti islamici in Siria e Iraq. Obama è arrivato a questa decisione con fatica e fra molte incertezze. Eppure nel momento in cui la rende nota, proprio nella data fatidica, egli prende un impegno morale nei confronti non solo del popolo americano, ma di tutto l'Occidente. Suo malgrado, il presidente riluttante, secondo la definizione dei giornali americani, si riallaccia a una linea politica che vede nel fondamentalismo islamico, prima Al-Qaeda, poi l'ISIS dei tagliatori di teste, il nemico da abbattere, l'avversario con cui non si potrà mai convivere. Ora serve che anche l'Europa, nelle forme e nei modi opportuni, faccia la sua parte, senza andare come al solito in ordine sparso. Insieme alla crisi dell'Ucraina è il primo dossier sul tavolo del nuovo ministro degli esteri dell'Unione, Federica Mogherini. Un'occasione d'oro per dimostrare che l'incarico non è solo una sigla vuota.